Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In Italia ce ne sono migliaia, ma alcune sono finte. Ce ne parla Barbara D'Amico. Oh, yeah. Ma la cosa che mi ha indignato di più parte dalla mia condizione di sieropositivo, per cui, dato che conosco le strutture sanitarie, questa è la prima cosa che mi ha toccato personalmente, perché sono stato fermato. E l'altra cosa che mi indigna, che mi fa rabbia, insomma, è vedere appunto questa speculazione e vedere anche la facilità con cui riescono a riprodurre il meccanismo, perché capisci bene che chi viene truffato per 5,20 euro non spende il tempo per andare in questura a denunciare, anche perché magari fa la figura del pollo. E poi anche perché denunciare non è così semplice, perché tu puoi tentare di fare una denuncia a condizione che tu hai una ricevuta, anche solo finta. La maggior parte delle volte non vengono rilasciate ricevute e poi hanno dei tesserini con delle foto. Una volta ho incontrato un ragazzo Ivrea e sul suo tesserino c'era il nome di una ragazza, dunque insomma probabilmente girano questi tesserini. La denuncia di Stefano Bruccoleri apre uno squarcio sulle degenerazioni che possono colpire il mondo del non profit in Italia. Raccolte fondi fatte per strada, senza rilascio di ricevuta, con modalità poco chiare e per progetti a volte inesistenti. Oltre alla Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, c'è un terzo organo che vigila sulla serietà del mondo delle ONLUS e del non profit, l'Agenzia per il Terzo Settore, che da anni scheda le finte ONLUS e monitora il mondo del non profit attraverso un'attività di controllo garantita, tra l'altro, dalle segnalazioni dei cittadini, come spiega uno dei responsabili del settore vigilanza dell'Agenzia, Paolo Pesticcio. Segnalazioni che arrivano dai privati, se sono segnalazioni che hanno un certo valore, nel senso che sono supportate, ecco, non basta una mail dove si scrive questa associazione non mi piace, insomma, serve qualcosa di più, insomma, concreto. Se sono segnalazioni di questo tipo, quindi firmate con un nome, un cognome, insomma, e quindi il nome dell'associazione o dell'ente che si ritiene fare un'attività non proprio trasparente, noi facciamo un primo step, diciamo, di indagine per vedere che tipo di associazione è, se è iscritta in qualche registro, facciamo una scheda istruttoria e poi la mandiamo alla Guardia di Finanza in genere. Questo per quanto riguarda l'attività di vigilanza che noi riusciamo a fare, perché non possiamo ovviamente agire concretamente, mentre la Guardia di Finanza può ovviamente poi andare a fare delle ispezioni. Ragazzi abili nell'ottenere donazioni per strada si spacciano per volontari del Pellicano Italia No Profit, organizzazione coordinata da Massimo Friani. Su questa cosa ci sono stati degli accertamenti, ma non è sfociato in niente. C'era un'ipotesi di truffa, come dice questo signor Bruccoleri o altri, è lui che poi stimola tutto. Abbiamo preso delle misure di sicurezza, abbiamo fatto varie cose, però gli abusivi ci sono, anche perché adesso è aumentata la crisi, dunque la gente se ne scogita tutte per vincere sui soldi, purtroppo. Friani è stato indagato dalla Guardia di Finanza per gli episodi di raccolte fondi irregolari, ma a sua volta ha denunciato i finti volontari, che definisce cellule impazzite. Sicuramente i capogruppi sono quelli che guadagnano di più. A me è arrivata una segnalazione su un blog che avevo aperto su Libero, in cui una ragazza pentita, che poi non si è più fatta sentire, aveva descritto la cosa e diceva appunto che i guadagni sono molto alti per i capigruppo, perché mentre per le raccolte fatte dal singolo sedicente volontario c'è una percentuale, il resto poi va al capogruppo, che a sua volta ha un riferimento nazionale. Strutture simili, dunque, secondo Bruccoleri e le indagini della Guardia di Finanza, avrebbero l'unico scopo di autoalimentarsi, producendo occupazione e veri e propri stipendi, anche tra i 1.000 e i 1.200 euro. Le ONLUS da tempo hanno abbandonato la raccolta face to face, cioè quella cash fatta per strada, e optato per il versamento su conto corrente bancario, più trasparente. Marco Sevino, per 2 anni e mezzo volontario di Greenpeace. L'attività di dialogazione è appunto quella di fermare le persone per strada, spiegare quello che fa l'associazione e chiedere alle persone che sono interessate di dare una mano economicamente. C'è una formazione, ovviamente prima di diventare dialogatori c'è una selezione, le persone che superano la selezione poi vengono formate, le persone non vengono, diciamo così, lanciate loro stesse in strada, però non chiedevamo appunto soldi in strada, chiedevamo alle persone di fermare una domiciliazione bancaria, in maniera molto trasparente le persone hanno la certezza appunto di dove vanno a finire i loro soldi, perché con il confronto conto, quindi proprio per il tratto conto posso appunto verificare. Chiunque potrebbe fingersi volontario, prendere i soldi e sparire. Bruccoleri ha una pagina Facebook in cui da anni raccoglie segnalazioni dei cittadini su organizzazioni poco trasparenti e nel mirino ci sono anche campagne di raccolta fondi famose come quella dell'Unlights. L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS è famosa per la vendita di bonsai nei giorni di Pasqua, campagna il cui ricavato va alla ricerca. Spesso in città dove non ha copertura, l'associazione si avvale di altri enti per la raccolta fondi, a volte non proprio affidabili. Ma quali sono i criteri di scelta? Alessandro Ventura, responsabile della campagna Bonsai. Tendenzialmente siamo noi che contattiamo loro, cerchiamo di studiare un po' la situazione attraverso quello che ci viene proposto dal web piuttosto che da altre informazioni. Quindi è un po' una costruzione molto lenta che va molto attraverso tam-tam, attraverso relazioni che si stringono fra le varie associazioni. Quanti di questi gruppi hanno restituito alla Lights il ricavato del 2011? Il 99,5%. E invece la restante parte che invece non ve l'ha ridati, a cosa è dovuto? Guardi, ci sono le motivazioni le più disparate, che possono essere legate magari anche a situazioni difficili del volontario stesso. A fine febbraio il Consiglio dei Ministri ha annunciato la chiusura dell'Agenzia per le Onlus e il passaggio delle funzioni al Ministero per le Politiche Sociali e il Lavoro. Ma l'agenzia è sempre stata organismo fondamentale per il controllo delle degenerazioni del mondo del non profit. Stefano Zamagni, presidente dell'ente per il terzo settore. Chiudendo l'agenzia verrà a mancare quell'organo di controllo e soprattutto di vigilanza che in questi anni, 10 anni, l'agenzia ha svolto e che è valso a far chiudere qualcosa come 1900 false onlus. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma l'organo e la funzione di vigilanza e di controllo lo affidiamo alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate. La mia risposta è vero, ma l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza svolgono un controllo solo di natura fiscale. Non possono perché non hanno il titolo valido per fare un controllo di meritorietà di questi enti, ad esempio controllare se il requisito della democraticità è assolto o meno, controllare se una campagna raccolta fondi è costata troppo rispetto al fine e così via. Cioè quello che in Italia non si riesce a far capire è che io posso eludere la fede pubblica anche rispettando la lettera delle leggi. La Guardia di Finanza, se vede che tu hai rispettato la lettera delle leggi, non ti può far niente. Però noi sappiamo che ci possono essere degli enti che raccolgono fondi rispettando le leggi, ma che non destinano questi fondi per i fini della missione dell'organizzazione. Allora, chi fa questa verifica? Non la può fare la Guardia di Finanza, la deve fare l'agenzia. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato le funzioni dell'agenzia fino al 30 aprile. Adesso l'ultima parola spetterà al Parlamento, l'unico competente a decidere sulla soppressione del cane da guardia delle Onlus. È tutto per oggi. Italia in Controluce torna domani alle 6:30.